Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è stata la settimana della neve e insomma non è una notizia, visto che siamo in inverno, siamo in febbraio, ma ancora una volta la notizia è che siamo stati sostanzialmente incapaci di gestire la situazione, molti disagi in varie città. Anche voi avete ricevuto un sacco di lamentele. Guarda Mirko, a distanza di qualche giorno certamente le polemiche non vogliono diminuire e noi anzi come Adico abbiamo tutto l'interesse a tenerle molto alte, perché non è possibile che ogni volta, di fronte anche a quelle che erano delle condizioni meteorologiche annunciate 2 o 3 giorni prima, per l'ennesima volta ci siamo trovati incapaci a dover subire tutti quelli che sono i disagi e la disorganizzazione che ormai i comuni, le amministrazioni, dai trasporti, i servizi che erogano servizi di pubblica utilità, forniture di energia elettrica, di acqua, di gas, eccetera, manifestano puntualmente di fronte a queste condizioni che secondo me non sono assolutamente drammatiche o allarmistiche, ma sono normali perché capitano d'inverno a metà febbraio. Ecco, i comuni, le province hanno detto dal canto loro: noi abbiamo fatto tutto secondo il nostro piano neve, ma poi lo stesso comune di Venezia, che ha ricevuto molte contestazioni, ha detto che sarà necessario aggiornare il piano neve. Non è neanche questione, secondo me, Mirko, di aggiornare, è questione solo di buon senso. E purtroppo ogni volta dobbiamo sempre star qui a fare un elenco di quello che è un bollettino di guerra che immancabilmente dobbiamo ricevere o trasmettere quando capitano questi disagi. Oggi non ha senso fare delle previsioni, annunciare neve, che normalmente la neve ci deve essere, come è normale che sia in questa stagione, e immancabilmente, come sempre, si deve parlare di condizioni straordinarie, emergenze, maltempo, perché qua tutta è sempre un'emergenza, un allarme, che ci sia pioggia, caldo, umidità, nebbia o neve. Qua dobbiamo capire che è normale, una condizione dove dovremmo essere abituati a convivere, ed è l'esempio di come paghiamo le tasse e in questo caso non riceviamo gli adeguati servizi, e come le amministrazioni non sono in grado neanche di avere un piano che sia funzionante, perché sappiamo che a loro quello che interessa è far pagare tasse e a dare multe. Allora, sulle strade principali certamente si è intervenuto, perché sono quelle dove c'è anche maggior flusso di traffico. È anche vero che in questi giorni i tir erano fermi proprio per il blocco della neve, le scuole erano chiuse per il carnevale, quindi tutto sommato poi non ci sono stati disagi così grandi, cioè poteva anche andare peggio. Ma certamente il periodo sicuramente hanno aiutato a contenere questi disagi che abbiamo detto, però è anche vero ed è incredibile come a un certo punto sostanzialmente i pullman e i treni hanno smesso di correre o non si capiva più che orari avevano, perché sostanzialmente qua a metà pomeriggio, dopo qualche ora che nevicava, tutto è andato in tilt e le persone hanno dovuto un pochino arrangiarsi e munirsi soprattutto di pazienza. Di pazienza che ha dovuto non solamente e riguardare le persone che dovevano spostarsi nella città o da Venezia o da Treviso o da Padova o prendere il treno per lavoro perché erano pendolari e dovevano rientrare a casa, ma poi, come se ciò non bastasse, ci ha pensato anche i gestori della rete, in questo caso l'Enel della marca trevigiana, a mettere al buio e a notte gran parte dell'area geografica interessata dalle persone, che oggi hanno pensato bene a rivolgersi all'Adico perché si sono sentiti comunque privi di un servizio pubblico che doveva essere garantito, e non hanno capito come hanno potuto stare tutta la notte e il giorno dopo al freddo per mancanza di corrente. E se abbiamo sentito di interruzioni anche di una dozzina di ore, anche qui per il ghiaccio, il vento, certo c'è stata una serie di cause naturali che hanno causato questi disagi su cui si è intervenuto, ma insomma viene da domandarsi se davvero la nostra rete infrastrutturale sia adeguata. Un'altra cosa, Carlo, abbiamo parlato spesso anche quest'inverno, ma anche l'inverno scorso, delle famose gomme da neve delle catene, che ci sono state rese obbligatorie. Ma allora, visto che ci sono, perché non le usiamo? perché come sempre scopriamo che quando le cose servono non sono mai efficaci come ci aspettiamo che debbano essere quando ce le vendono. E come tutte le cose ci vengono propinate, obbligate a essere comprate solamente per farci spendere soldi e per trovare modo comune di darci le multe se non ce ne dotiamo e quindi andare sempre a rimpinguare le casse comunali. Oggi quello che invece veramente bisogna capire è veramente che è ora di mettersi una mano sulla coscienza e cominciare a non speculare solamente sul territorio, sul portafoglio delle persone, ma cominciare a mettere mano a quelli che sono nei bilanci comunali la necessità di fare delle opere di salvaguardia del territorio che possono far fronte anche a quelli che sono eventuali nevicate, eventuali piogge che un po' superano la media, le mareggiate come abbiamo visto a Venezia, e la viabilità che non è pensabile, come ancora per esempio il giorno dopo i treni dei pendolari avessero addirittura un'ora e mezza di ritardo. Poi la barzelletta è stata la gomma scoppiata a un pipe a Marco Polo che ha bloccato tutto l'aeroporto solo perché una gomma di un pipe si è scoppiata, e abbiamo avuto anche qua un sacco di persone che si sono rivolte all'Adico che dovevano rientrare e credevano che l'aeroporto fosse bloccato per la neve. Quindi tante piccole cosine che come al solito ci ha messo sempre nel ridicolo. Sì, tra l'altro i voli dirottati da Venezia sono comunque atterrati o partiti in altri aeroporti, quindi forse il problema è qui, è solo qui, perché a Trieste, a Bergamo o a Verona i problemi non ci sono. Sì, certamente, i problemi li abbiamo sempre qui, e poi abbiamo anche il discorso della mareggiata, come per esempio hanno annunciato una marea di 1,43 m, quando per esempio molti commercianti ci hanno contattato dicendo che loro l'hanno misurata ed erano convinti e sono convinti di aver superato 1,5 m o di averci arrivato, quando sappiamo che il comune non dirà mai che la marea sarà 1,50 m perché avrebbe l'obbligo di indennizzare tutti i commercianti. Quindi sai, tante cose che messe assieme ci fanno pensare o alimentano un po' la cultura del sospetto, ma che sostanzialmente dimostra l'incapacità di queste persone e che anche dimostrano come non hanno la sensibilità nel rispetto di chi lavora, di chi ha un negozio, di chi deve spostarsi per andare a scuola, in fabbrica, in azienda, o prestare soccorso, oppure dover andare a prestare assistenza agli anziani. E dopo, ripeto, il colmo è stato aver pensato anche di metterli bene al fresco tutta la notte fino al giorno dopo, perché probabilmente 10 cm di neve ha gelato le linee e ha messo buio interi comuni. Va bene, chiederemo aiuto all'Alto Adige o alla Carinzia anche su questo, allora, che visto che loro sono più bravi a gestire le situazioni invernali. Con questo noi ci salutiamo, Carlo, appuntamento alla prossima settimana con altri due argomenti. Ciao, grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.